Tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, il pomeriggio è davvero buono in clima olimpico perché abbiamo appena festeggiato una medaglia d'argento. Sentiamo. Italy, attention. Andiamo, Ale. Andiamo campioni, acqua 6 l'Italia, soprattutto teniamo lì la Nuova Zelanda, è la cosa più importante per l'esperienza che hanno due fenomeni come Cohen e Wilson. Adesso siamo avanti alla Nuova Zelanda, andiamo ad attaccare l'Argentina, 2-10 minuti di vantaggio, siamo a 500 metri dall'arrivo, stiamo per arrivare davanti alle tribune, splendido questo colpo, grande, grandissimo, splendido. Sta urlando come un pazzo Battisti, è un concerto quasi come fosse quello del suo omonimo Lucio. Attenzione però perché arriva la rimonta 200 metri, feroce della Slovenia, 200 metri Nuova Zelanda. Arrivano gli All Blacks, passa la Nuova Zelanda in questo momento, forza, passa Alessio, Nuova Zelanda, forza Pietro, all'arco c'è la Slovenia, l'Italia è lì, abbiamo tenuto il secondo posto e medaglia d'argento per Sartori Battisti, bellissima, una medaglia d'argento fantastica, terza la Slovenia. Noi ce l'abbiamo messa tutta, ci ho creduto dal primo giorno per questo risultato. Il nostro percorso è stato molto difficile, quest'anno abbiamo dovuto combattere in ogni situazione, tirare fuori i denti, tirare fuori la grinta, abbiamo dimostrato non solo di essere degli atleti di livello ma di avere le capacità per poter competere a livello internazionale. Matteo Comes in regia, Franco Piantaneda in redazione, io vi chiedo di festeggiare con noi questa decima medaglia della nostra spedizione, medaglia d'argento, ma abbiamo pensato e sperato all'oro insieme a Nicola Roggero, questa bellissima telecronaca secondo me, che potesse addirittura essere di un altro materiale, del materiale più nobile, perché ai 1500 metri dopo una grande rimonta il vecchio Sartori e Romano Battisti erano davanti a tutti. Dario Ricci era lì con la bandiera in mano. Ciao Dario. Sì, quella se la porto sempre a portata di mano, Carlo, perché a parte qualche inevitabile passo, la nostra Olimpiade è segnata anche da tanti altri, come questo splendido argento che è arrivato dal bacino di Eton. E credo che una medaglia nel canottaggio in questa edizione valga doppio se non triplo, perché per capirci il canottaggio qui è il calcio per i brasiliani, quindi conquistare una medaglia qui vale decisamente di più, certo. Perché Eton è il tempio del canottaggio mondiale, tutte le mattine c'è un collegamento sulla BBC con Sir Steve Redgrave che dà la benedizione urbi et orbi a tutti i britannici, quindi veramente a viverlo da qui si capisce che cos'è questo sport per questo paese. Intanto sembra una buona giornata, anzi un'ottima giornata anche per il Dream Team del Fioretto femminile, che vola facilmente in semifinale, Gran Bretagna sconfitta 42-14 e dunque le nostre sono in semifinale a caccia di una medaglia, poi vedremo. Speriamo che arrivi e poi valuteremo anche lì il peso specifico di questa medaglia, ma intanto siamo in doppia cifra. Acqua Dario che diventa amica, almeno all'aperto, almeno con i remi. Più tardi, ve lo dico, tra pochi minuti, e prenotatevi se volete, sarà con noi al telefono la medaglia d'oro di ieri, cioè Molmenti, per rispondere anche alle vostre domande. Tra l'altro un ragazzo estremamente simpatico, vero Dario? Assolutamente sì, direi che è uno dei personaggi nuovi di questa Olimpiade. Ieri veramente mi ha stupito quando ho potuto apprezzarlo nella conferenza stampa internazionale, subito dopo la vittoria, insomma, prima medaglia olimpica al collo, la fatica fatta non poca e lui lucidissimo a tenere in pugno qualche decina di giornalisti. Tra l'altro, piccolo retroscena, Carlo. Ieri abbiamo messo lo zampino anche in questa storia della telefonata con la Ducati, sì, perché come sai lui grande appassionato di Ducati, ieri stavamo prendendo un caffè, perché a Casa Italia capita anche questo, un aperitivo col presidente Petrucci, arriva Paolo Cevoli, il famoso comico di Zeli, che parliamo di tante qualità di Daniele, e esce fuori questa passionaccia per la Ducati, Cevoli dice ma io conosco il presidente, e allora ecco là, ci è venuta l'idea. Telefoniamo subito al presidente della Ducati per incastrarlo e vedere se ci scappa fuori una moto per Daniele. pochi minuti, telefonata fatta a casa Italia, e adesso diciamo che sono in trattativa. Per il momento c'è stato l'invito ufficiale a Borgo Panigale e anche per un gran premio, però Daniele potrà ringraziarci almeno se gli fanno un piccolo sconticino, ecco. Ecco, sì, e poi glielo chiediamo insieme. Dopo glielo chiediamo, certo. Magari un ringraziamento è dovuto. Intanto notizie olimpiche in cronaca: Daniello fuori dalla finale per un piattello, 136, e si entrava in finale con 137. Di Spigno buca ancora l'Olimpiadi, double trap, fallimento dopo due finali di skit. Notizie non positive queste. Pensa, Dario, che c'è chi mi scrive: che palle, porti sfiga, hai seccato tutti quelli del nuoto, scrive Gino, come se fosse colpa mia. Quello che è successo invece nelle altre acque, quelle delle piscine nemiche, tra l'altro oggi mi pare che sarò io che porto sfiga, ma Orsi le ha cantate chiare al clima che c'è nella spedizione e a Magnini, cioè dicendo, dopo l'eliminazione nelle batterie dei 50 stile libero, Marco Orsi ha detto: Filippo ha sbagliato, non doveva fare così a un campione e il capitano, serviva tranquillità. La verità è che c'è chi pensa solo ai cavoli propri, il clima è irrespirabile, non si fa così, sono furioso, non possono fare audience con queste cavolate e poi ci rimettiamo tutti. Ci è andato giù piano? Sì, direi che col freno a mano tirato, ma insomma che... molto spesso è capitato nelle nostre spedizioni del nuoto che quando i risultati in acqua non sono arrivati c'era un clima non positivo a bordo vasca. Sarà un sillogismo banale e molti, anche noi spesso sosteniamo che non è necessario essere amici per essere campioni, però evidentemente questa è la punta di un iceberg, no? E finché ci sono i risultati si riescono a coprire queste magagne, ma insomma lo sappiamo, Magnini, capitano della nazionale, capitano della staffetta, se questi sono i rapporti, certo. Forse c'è qualcosa da rivedere, c'è qualcosa da ripensare. Io rimango sempre con questa domanda, poi magari da qui all'Olimpiade riusciremo a trovare la risposta: chi è il CT della Nazionale Azzurra di Nuoto? E quando ci sarà la fine della spedizione, chi verrà in conferenza stampa a spiegare delle cose? Sì. Perché non credo che sia Magnini comunque il deputato a spiegarci delle cose, né Rossetto, che è l'allenatore del gruppo. Cioè, certo. Qual è il CT della Nazionale, qual è la struttura tecnica, ma magari mi sfugge a me. E quali sono state le modalità di lavoro? Perché anche il clima, anche il clima non è qualcosa che si crea lì a Londra, il clima è qualcosa che ti sei portato in valigia. 800240024 per la vostra voce, 349-238-6666 per i vostri messaggi. Intanto gli avvocati Antonio De Renzis e Luigi Chiappero, legali del tecnico della Juventus Antonio Conte e del suo vice Angelo Alessio, sono appena arrivati all'ex ostello della gioventù del Foro Italico, dove si sta svolgendo il processo al calcio scommesse. Gli avvocati, giunti direttamente da Torino, non hanno svelato quale sarà la loro linea difensiva da presentare alla commissione disciplinare. Anche questa ve la do in cronaca, ma poi ne parliamo. Tanto lo sport è meraviglioso, anche perché insomma si intreccia molto con le stelle, si intreccia molto con le date, con i corsi ricorsi, si intreccia con qualcosa di impalpabile e imponderabile. In attesa di parlare con Molmenti, sentite questo. Siamo con le immagini, signore e signori, in diretta, perché è arrivato anche l'ultimo concorrente. Il tempo di Pierpaolo Ferrazzi è stato al termine di 1 minuto 46 89, pari a 106 89. Al secondo posto il francese Cournier con 107 06. È veramente un'immagine splendida quella che vi siamo offrendo. Ho cominciato a praticare la canoa slalom nel 1995 perché era estate, faceva caldo e c'era questo gruppo di ragazzi che si divertiva in acqua, si schizzavano l'acqua con queste barchette. Ho provato anch'io e mi sono subito appassionato e ho amato questo sport da subito. For democracy, any man would give his only begotten son. Bagagliatore di Torre di Pordenone in forza al Corpo Forestale dello Stato, decima alle Olimpiadi di Pechino, ma il campione del mondo 2010 è il campione europeo in carica. Molmenti 61.35, l'intertempo dell'azzurro è di 94 centesimi migliore rispetto a quello del cieco, affonda la pagaia della sua canoa rossa e poi surfa sull'onda. Esplodi, 94.78, 94.78 e 93. Poi è primo con un primo 45. È un grande. As unthinking as the day until the day he joins me. Sai, sono stati anni che ho investito su me stesso, vendere la moto è stato anche obbligatorio perché ho dovuto promettere al mio allenatore che non ci correvo più dopo l'incidente del 2007, però sono stati investimenti che sono stati ben ripagati, questa è davvero pesante e questa mi rimarrà tutta la vita. Sì, sì, probabilmente era scritto da qualche parte, domani è il suo 20° della medaglia sua, oggi è il mio compleanno, c'erano tante cose che combaciavano in questa giornata, quindi meglio di dire. Eh sì, perché il 2 agosto del 92, come avete sentito, e abbiamo aperto questa ricostruzione, questa suggestione con la telecronaca di allora, 2 agosto 92 a Barcellona, Pierpaolo Ferrazzi, che oggi è l'allenatore di Molmenti, vinceva la medaglia d'oro nella canoa slalom. Si è partiti da quelle barchette nel 95, era estate, c'erano questi ragazzi che schizzavano l'acqua e si divertivano un mondo, e da lì è nata, pensate, una medaglia d'oro. C'è Riccardo da Cuneo già in linea, 800 24 00 24, il numero verde. C'è sempre Dario Ricci, nostro inviato a Londra. C'è già una domanda per Daniele Molmenti che stiamo cercando e speriamo tra poco di rintracciare lì a Londra. La domanda è questa: Diego, a Daniele non piace soltanto la canoa e la Ducati, come va con la pennetta? Come va con la pennetta? Sentiamo come va con la pennetta. Flavia. Chi, Daniele? Ha vinto l'oro? Che grande! Ha vinto l'oro, che grande! Abbiamo fatto tutta la settimana a tecare insieme. Cioè. Tutta la settimana? Trattamento. Che grande! Mamma mia, troppo forte! Simpaticissimo. Veramente un ragazzo molto simpatico, lo conosco poco, per carità, c'erano i due lettini e una tenda nel mezzo, quindi si parlava un po' così, era botta e risposta, però mi è sembrato molto simpatico. È un bel ragazzo, fa piacere, sì. Quindi incassa anche questo Daniele Molmenti. Riccardo Cuneo, buongiorno. Velocissimo, cerco di essere il più breve possibile. Allora, dica. Sulle Olimpiadi, lei si era posto la domanda di come mai, se la squadra nazionale di nuoto frana, non ci stupiamo più di tanto, se lo facesse il calcio ci incavoliamo come delle bestie. Probabilmente perché comunque i valori in campo economici tra uno sport e l'altro sono talmente dispari che capiamo un po' di più, fra virgolette, anche se non è più così, il dilettantismo dei nuotatori piuttosto che il super professionismo dei calciatori. Quindi lei ne fa una questione di soldi, cioè quelli guadagnano tanto e devono vincere, questi invece guadagnano meno, che poi per le punte di diamante da verificare tra sponsorizzazioni, cose varie eccetera, perché non ho idea di quanto incassi in un anno ad esempio Federica Pellegrini, ma sono magari ricerche che a me interessano poco ma che si possono fare. Quindi lei la mette sul grano, cioè quelli guadagnano tanto, me, devono sì, vincere. Fondamentalmente sono più simpatici gli atleti che si considerano meno ricchi piuttosto che i super ricchi calciatori, ma questo poi è relativo. Velocissimo, sul fatto che Phelps abbia dichiarato di mangiare, dormire e nuotare. Sì. Per carità, io preferisco la Pellegrini e il suo moroso che fanno certe cose in giro per il mondo. Capisco perché Phelps abbia quelle due braccione, uno nanista, e quindi cavoli suoi. Guardi Riccardo, dopo questa la terza non gliela lascio dire, mi perdoni, perché questa era veramente qualcosa di inaccettabile, anche di inelegante. Luca dalla provincia di Milano invece, cosa vuoi chiedere alla medaglia d'oro di ieri Molmenti? Cosa ti piacerebbe chiedere a Daniele Molmenti? o cosa ti piacerebbe dire a Daniele Molmetti? Buongiorno, innanzitutto vorrei solo fare i complimenti perché immagino la fatica che debba fare per arrivare a certi livelli un atleta che fa uno sport del genere all'ombra e all'oscuro tutto l'anno, anzi tutto l'anno, per 4 anni e essere visti solo alle Olimpiadi. Mi piacerebbe che persone come lui che fanno uno sport così siano d'esempio, per esempio ai calciatori, sì, e non solo ai calciatori, a tutti quelli che fanno girare il mondo del calcio. E allora le faccio rispondere dalla medaglia d'oro, Daniele Molmetti. Ciao Daniele, grazie, complimenti ovviamente. Buongiorno a tutti, grazie a voi. Hai sentito la telefonata dell'ascoltatore? Sì, ho sentito. Beh, sai, l'ho detto in tante interviste che noi purtroppo siamo considerati sport minori dai più per la nostra poca visibilità, però mi pare che ai risultati non siamo per niente minori, anzi. Anzi, sono maggiorissimi. Sai, io quest'anno l'Europeo l'ho vinto, l'Italia del calcio no, io le Olimpiadi anche queste l'ho vinte e l'Italia neanche c'era, quindi voglio dire, se guardiamo quello e i risultati, insomma, ne abbiamo molto di più noi. Senti, ma so che Dario Ricci ieri ti ha procurato una Ducati. Sì, beh, lo spero, dopo sai, sono tanti anni che sottolineo sempre la mia passione per Ducati, la mia canoa rossa Ducati, mi raccomando. Sì. Ieri mi hanno fatto una bellissima sorpresa, e mi hanno invitato poi a Bologna e vediamo cosa viene fuori. Ah. Speriamo che Ducati salti fuori. Ducati che non mi sembra in grande spolvero con Valentino Rossi, io soffro come un cane ad ogni Gran Premio, non so tu. Anch'io soffro davvero tanto, infatti guarda, io sono tanti anni che dico io ho la canoa rossa Ducati perché mi porta bene, magari la prossima gara loro dicono noi abbiamo la moto rosso Molmenti e magari vincono. Tanto messaggio che ti arriva da Nico: grazie Molmenti per le forti emozioni di ieri, sei fortissimo dentro e fuori dall'acqua, scrive un ascoltatore. Dario Ricci, dove sei? Eccoci qua, siamo in uno dei classici viaggi a vuoto olimpici, perché ci stavamo spostando verso le Royal Tilray Barracks per la finale del Double Trap, ma gli azzurri non ci sono, quindi diciamo giro turistico di Londra pagato, anche questo è l'Olimpiade, Carlo, come sai bene. Beh, a Daniele direi, oltre ai complimenti, chiedo soprattutto se ha già Rio 2016 nel mirino, perché nella pagaia e nelle braccia, perché i sacrifici per arrivare fin qui sono stati tanti e non è detto che uno voglia per forza ripeterli. Sì, adesso glielo chiediamo perché è caduta la linea e speriamo di ripristinarla al più presto, caro Dario. Senti, dicevi che viaggi a vuoto olimpici ne stai facendo tanti, perché su e giù dai treni. Eh sì, su e giù dai treni, su e giù dai pullman, dove come ad esempio in questo caso, ma è l'Olimpiade che poi ti prende facilmente la mano, perché la mattina tu ti fai il tuo programma impossibile che prevede una partita ogni 15 minuti e poi inevitabilmente fai fatica a rispettarlo, però è bello così, è bello anche non saper tutto, rincorrere le notizie, rincorrere i personaggi. E poi tante volte poi quando li vedi l'emozione vale doppio, perché è come se avessi veramente vinto il premio più bello. Tanto raccolgo messaggi per Daniele Molmetti sperando di recuperarne la linea. Grande Daniele, qui a Bassano siamo orgogliosi, ti verremo a trovare in Valstagna. Viva la canoa, viva il canoing. Dario, io fossi in te mi organizzerei già il viaggio verso la fencing goal, cioè la sala della scherma, perché penso che da lì ci sarà qualcosa da commentare. Assolutamente sì, infatti neanche scendo da questo bus, siamo io e un altro collega italiano, Gerardo De Vivo, un amico, un giapponesino che si è addormentato, siamo in tre più l'autista. Neanche scendo e vado subito alla fencing goal, così vi raccontiamo anche quest'altra splendida avventura. Sì, tornando alla medaglia d'argento di questa mattina, c'è stata anche una polemica dei due canoisti che hanno vinto, cioè Battisti e Sartori, che hanno detto: noi ci abbiamo sempre creduto, siamo un equipaggio, un gruppo sportivo, le Fiamme Gialle, per la federazione non eravamo adatti a questo livello. Hanno detto Romano ha ragione, ha aggiunto Sartori, veniamo da un anno durissimo, abbiamo gareggiato con un lutto sulla maglia per il colonnello Gaetano Bellantuono, è stato un secondo papà, ha formato lui questo equipaggio, oggi è qui con noi, quindi c'è anche qualche polemica dietro questa medaglia. È tornato Daniele Molmenti? È tornato? Daniele? Sì, sono qui. Rieccoci, ti avevamo perso per un attimo. Stai girando a Londra tra i palazzi. Programma da adesso ai prossimi giorni? Beh, oggi ancora mi godo un po' questa medaglia e sto girando tra Casa Italia e i vari stadi, i vari uffici Sky, e dopo spero di riuscire ad avere tempo per andare a fare un po' di tifo agli altri italiani e soprattutto portare insomma un po' di fortuna con la mia medaglia agli altri italiani. E dopo rientrerei in Italia fra 5-6 giorni, adesso devo ancora capire bene le tempistiche e poi spero un po' di vacanza. E poi pensi a Rio, giusto? Beh, il Rio è tanto lontana, però sai, io ho vinto tutto nella canoa, dovrei un po' ricominciare da zero, ricominciare all'inizio dell'Europeo, il Mondiale, dopo questa un'altra Olimpiade, perché io sono una persona agonista che ha bisogno di obiettivi e sicuramente date motivazioni. Adesso pensare a Rio secondo me è un po' presto, un po' prematuro, sai, anche perché non voglio limitarmi soltanto ad essere un forte atleta, sto anche continuando gli studi, la carriera in forestale secondo me sarebbe davvero una buona cosa per la vita. Hai altri obiettivi, altri interessi giustamente nella vita, l'importante è che non fai come la Pellegrini che si ferma. A proposito, ti chiedo ancora questo, la tua idea, l'idea che ti sei fatto su questo affondamento di quella che sembrava una corazzata azzurra del nuoto, rimaniamo sempre nelle acque, altra acqua. Noi appassionati di sport comunque sapevamo i tempi dei nostri italiani di 2-3 mesi fa, e se in Europa stravincono basta che arrivi qualche australiano o americano, i tempi non bastano più, quindi insomma noi sapevamo già insomma il loro vero potenziale. Purtroppo sono stati un po' distratti gli atleti secondo me dalle pressioni esterne e caricati un po' troppo presto a queste Olimpiadi, secondo me troppa visibilità, li ha un po' distratti, più concentrati sull'allenamento e i dettagli, perché alla fine dell'Olimpiade davvero vince chi cura i dettagli, la dieta, la preparazione mentale, e secondo me hanno potuto fare la differenza. Altri ascoltatori in arrivo all'800 24 00 24, nostro numero verde. Dario invece, Dario Ricci, nostro inviato a Londra, proviamo a dare un'informazione di servizio, perché Guido ci manda un SMS che è questo: domani con un amico vado a Londra per 3 giorni, non abbiamo biglietti, potete dare informazioni riguardo al possibile acquisto di biglietti? Mi sembra sia una cosa molto difficile. Allora, possibile acquisto di biglietti, bisogna andare sul sito ufficiale, perché c'è stata tutta la polemica, come avete letto e come abbiamo raccontato in questi giorni, li stanno rimettendo in vendita praticamente in orario i notturni, si possono prenotare, i prezzi sono piuttosto alti, ma per chi vuol fare l'esperienza olimpica magari sono più che giustificati, e quindi si possono prenotare e poi ritirare ai botteghini, numeri limitati, anche se poi come avete visto spalti spesso vuoti, perché deserti c'è stato... o semideserti, sì. Tra l'altro, ecco, seconda informazione a cui il collega Vincenzo Martucci della Gazzetta dello Sport, che noi siamo arrivati qua alle Royal Artillery Barracks per vedere questa gara che di fatto ormai non vede italiani protagonisti, allora gli ruberei al volo un commento ringraziandolo su questa eliminazione a sorpresa di Daniello e di Spigno. Vincenzo, anche stavolta dal tiro al volo niente da fare, niente da fare, è stato un bel fallimento questo del tiro al volo, cioè il presidente federale molto molto abbattuto dopo le due finali appena raggiunte dallo skit, zero finale qui dove c'erano i due tiratori più forti sulla carta, quelli più in forma. Di Spigno è una maledizione all'Olimpiade, insomma lui proprio non riesce, era proprio veramente affranto alla fine, ha cominciato male e ha finito peggio, e Daniello ha passato solo doppio zero nell'ultima serie, ma soprattutto nella serie precedente, nella seconda, ha sbagliato l'ultimo piattello, che per uno bravo come lui della sua qualità è proprio una cosa che non ci sta, e alla fine malgrado tutto per un solo piattello non è entrato in finale. Questo vuol dire proprio non esserci con la testa, non essere determinati, non essere cattivi, evidentemente questo è un insegnamento del tiro a volo qui all'Olimpiade, quelli favoriti qui non riescono. Insomma, ringrazio a Vincenzo che sotto la pioggia col sandwich in mano ci ha raccontato sì. pure questa gara. Guarda, Carlo, Dario, se, io... Dario, se riesci, rubagli una battuta anche sul torneo di tennis, che è il suo pane, insomma, non il suo panino, Vincenzo, ma il suo pane. Vincenzo, lo inseguo sul pullman, quel bello della diretta, ti rubiamo, visto che è il tuo pane, anche una battuta sul torneo di tennis, su questo Wimbledon olimpico, che è la chicca di questa Olimpiade. Beh sì, è uno dei tornei più importanti di sempre, dell'Olimpiade sicuramente, perché anche se è stato uno degli sport iniziali poi si è allontanato, ora c'è tornato in modo concreto. Oggi ci sono i quarti, Federer c'ha questo incontro molto difficile contro Isner, adesso vediamo però perché la pioggia insomma rischia di rovinare tutto. È brutto, eh? E noi italiani purtroppo niente, abbiamo preso questa mazzata soprattutto dal doppio Pennetta Schiavone, che secondo me era l'unico che realmente aveva delle possibilità. Adesso ci rimane in gara Errani Vinci contro le Williams oggi con un pronostico praticamente chiuso, e poi domani se questo doppio misto Bracciali Vinci, che qualche possibilità ce l'ha perché sono tutti e due doppisti, però decisamente definire una spedizione olimpica in base a un doppio misto fa capire un po' che livello basso ci sia. Però abbiamo visto delle belle partite nel torneo maschile e nel torneo femminile, soprattutto con una Serena Williams veramente scatenata, ieri è stata impressionante contro Zvonareva, un 6-1-6-0 veramente schiacciante contro una giocatrice di buon livello, e questo fa capire che cosa, quanto lei voglia vincere Wimbledon, che ricordiamo ha vinto 3 settimane fa nella formula classica. Insomma, altro da chiedere a Vincenzo, Carlo. No, lasciamolo andare, Dario, lasciamolo andare. Al panino, ci siamo rifugiati sul pullman perché qua è venuto fuori il diluvio universale, ma la fencing goal è al coperto e meno male. E le nostre ragazze stanno affrontando la semifinale, peraltro appena iniziata. Roberto, provincia di Macerata. Salve. Salve, volevo dare una soluzione così scherzosa sul perché magari tutti perdonano i nuotatori. Forse perché quando vincono nessuno va a festeggiare neppure. Quindi alla fine perdonare una cosa su cui poco sono attaccate le persone è facile. Beh, se lei intende Caroselli in auto è un conto, però insomma ai successi dei nuotatori che abbiamo incominciato ad assaggiare a Sydney 2000 e abbiamo vissuto delle avventure splendide. Cioè, se la mettiamo sul carosello in auto è un conto, se la mettiamo sulla soddisfazione di vedere onestamente dei fenomeni italiani in acqua, allora è un'altra storia. Io sono deluso, sono rattristato da questo, non so lei Roberto, anche se in macchina non ci vado a fare i caroselli né per la nazionale di calcio né per i nuotatori. Stessa cosa anch'io. No, ma io stavo pensando che i problemi grandi saranno per il CONI alla fine di questa spedizione olimpica, perché la seconda settimana io non credo che ci riserverà grandissime medaglie, visto che c'è l'atletica, c'è la lotta, ci sono discipline in cui noi non ci siamo. Il problema per il CONI sarà tra una settimana, due. E lì i problemi saranno per tutte le discipline, non per il nuoto. Il nuoto qualche soddisfazione ce la dà ogni tanto, ma il resto mi sembra veramente che siamo in condizioni pessime quest'anno, mi sbaglio? Non si sbaglia su diversi sport. Io continuo a confidare sugli sport di squadra acquatici, cioè pallanuoto maschile e femminile, e sulla pallavolo maschile e femminile, che hanno appena iniziato i loro tornei e potrebbero riservarci qualcosa di buono. Non c'è il calcio ed è vero, non c'è il basket ed è vero. Nell'atletica non abbiamo praticamente speranze, però dire la seconda settimana sarà un calvario ci andrei piano. Intanto incassiamo queste 10 medaglie e viaggiamo comunque su quei livelli che erano insomma, pensavamo a una ventina di medaglie, no, Dario Ricci? Pensavamo le stime più prudenziali, quelle del CONI dicevano 25-26 medaglie. Credo che con Vincenzo abbiamo toccato il nervo scoperto di questa spedizione, perché la grande ammiraglia della nostra spedizione olimpica forse il più è sfuggito, ma è proprio la nazionale di tiro a volo, che arrivava qui con un palmarès straordinario, con vittorie in campionati del mondo e Coppa del Mondo in serie, con olimpiche, come ha dato ancora Vincenzo, eravamo l'unica nazione con così tante carte olimpiche, ottenute tra l'altro con largo anticipo sui tempi. Non aver raccolto nulla finora è veramente drammatico dal punto di vista del medagliere. Oggi parlavamo proprio con Giovanni Pelliello, tra l'altro a Casa Italia venendo qui, lui ribadiva il fatto che la preparazione era stata fatta nel migliore dei modi, sì. Come invece abbiamo in realtà ricordato nei giorni scorsi, c'era stato qualche problema, perché gli azzurri avevano detto ma erano venuti qua a Londra, poi avevano detto ma qua non ci fanno allenare, sono andati a San Marino. Poi la versione ufficiale di questo spostamento è stata legittimata come un passaggio che era già comunque preventivato, però non è possibile che una nazionale così forte ottenga questi risultati. E questo pesa molto sul nostro medagliere, Carlo. Certo, intanto è appena iniziata la semifinale di Fioretto femminile. Io conto che da qui si possa raccontare un'altra medaglia stasera. Dario, intanto ti ringrazio. Grazie a voi, grazie a voi. A più tardi, buon lavoro. Io tenendo naturalmente monitorate tutte le notizie olimpiche che posso darvi in tempo reale in quest'ora di sport, saluto e ringrazio, per voltare invece pagina e parlare di un altro argomento, Alessandro Vocalelli. Buongiorno direttore. Salve, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori, ciao a tutti. Prima abbiamo dato notizia di cronaca secondo cui gli avvocati della Juventus sono arrivati all'ex ostero della Gioventù, non si sa quale linea di difesa terranno. La tua idea su questa vicenda? La mia idea è che è un grande papocchio, nel senso che mi è sembrata sin dall'inizio il deferimento nei confronti di Conte, che innanzitutto si prestava ad alcune incongruenze, ad alcune domande. Io mi chiedo se di questa cosa si è parlato, anzi addirittura avrebbe parlato Conte durante la riunione tecnica, e quindi alla presenza anche degli altri 15, 18, 20 giocatori, e non capisco perché se si parla di omessa denuncia gli altri giocatori che erano presenti e quindi hanno ascoltato non dovrebbero essere stati anche loro eventualmente giudicati, sì, colpevoli di omessa denuncia. Ma posso dirti, io questa storia non ci ho mai creduto in realtà, cioè io mi rifiuto di pensare che un allenatore, una persona di normale intelligenza vada a fare un discorso così di fronte a tutta la squadra. Se è così, allora è ancora peggio, perché vuol dire che è una pratica comune. Io sono perfettamente d'accordo con te, conosco abbastanza Conte da poter dire che eventualmente se c'è un difetto Conte è quello di essere un pochino egocentrico, diciamo così, una persona che è consapevole delle proprie capacità e quindi diciamo è abbastanza, non voglio dire presuntuoso, però insomma consapevole di se stesso, e quindi pensare che comunque una persona così, che è tutt'altro però che veduta, appunto, perché è una persona intelligente, possa parlare liberamente davanti a 20 persone, e tra l'altro poi abbiamo scoperto che con alcuni di questi c'erano addirittura delle ruggine, c'erano addirittura dei problemi, c'erano delle funzioni, e comunque siamo distanti anni luce dal profilo di uno e dell'altro. Cioè Antonio Conte è un ex grande giocatore, grandissimo giocatore, e quindi con un passato straordinario. E probabilmente alcuni giocatori del Siena erano dei ragazzi veramente, certo, alle primissime armi, certo. Pensare che ci possa essere questa complicità, diciamo così, questa comunque questa confidenza, anche a me francamente è sembrato strano, e comunque se così fosse, appunto, Conte sarebbe da una parte sciocco, però dall'altra parte non si capisce perché gli altri sarebbero stati tenuti fuori, quindi certo. Questa è la prima incongruenza, certo. E poi comunque mi è sembrato di capire che la richiesta di deferimento di Palazzi sia mossa in un ambito di diciamo così anche molto politico, e non c'è dubbio che su tutto questo stia aleggiando il problema derivante ancora dal post Calciopoli, dalla richiesta di danni della Juventus, dai 30 sul campo, dalle risposte che non sono mai arrivate sul secondo passaggio di Calciopoli, quello che riguardava l'Inter, e per cui la federazione non è che non ha dato risposte in un senso o in un altro, non ha dato proprio risposte. Certo, allora dico, è evidente che pesa in questo ambito, diciamo, tutta questa difficoltà della nostra federazione, della nostra giustizia di dare risposte. Ecco, questa è la prima cosa. E poi però che comunque che si possa arrivare a già una sentenza scritta attraverso un patteggiamento prima ancora che cominci un processo, ma francamente anche quello proprio sembrava quantomeno richiamare. Alessandro Vocalelli, ex direttore Corriere dello Sport, ora penna illustre di Repubblica. C'è qualcuno che vorrebbe far saltare l'intero assetto della giustizia sportiva? Cioè vorrebbe una Juventus aggressiva contro questa giustizia sportiva che è qualcosa di anacronistico, è qualcosa di draconiano se vogliamo, è qualcosa di che comunque non può funzionare, no? Questa sommarietà dei processi, si cerca di fare in fretta, in questa ottica rientrano i patteggiamenti, chiudiamo tutto alla svelta perché c'è da giocare. Beh, questo diciamo è un limite della giustizia sportiva, il fatto che comunque si deve giocare, per cui i processi vengono fatti molto in fretta e a volte sono anche onestamente dei processi sommari. È stato dimostrato a Calciopoli che insomma sicuramente è stato fatto tutto con una fretta determinata dalle necessità di iscrivere le squadre al campionato e alle coppe, e poi abbiamo scoperto mille altre cose. Ma di Calciopoli ha colpito che però finito il processo con quella velocità ci abbia dovuto pensare Moggi con il suo staff ad andarsi a risentire tutte le intercettazioni, compito che comunque finita la fretta sarebbe toccata alla federazione, cosa che invece non ha fatto, è rimasta sbalordita, bocca aperta anche lei di fronte a quello che sentiva dopo, però ecco, anche quello era un compito istituzionale. Non c'è dubbio che la giustizia sportiva abbia dei limiti, tra l'altro ancora non visto, dopo averla comunque conosciuta per tanti anni, insomma, tutto questo mestiere. Non capisco per quale motivo nella giustizia sportiva valga il principio per cui uno deve dimostrare la propria innocenza, certo, e non sia chi ti accusa che deve dimostrare la sua colpevolezza. No, ma qualcosa di giuridicamente barbaro questa inversione dell'onere della prova, l'abbiamo detto molte volte, no? È qualcosa che da un punto di vista giuridico è qualcosa di medievale. Sì, ma anche no, da un punto di vista umano, perché io poi tra l'altro mi rendo conto che quando tu ti trovi in un tritacarne, è già stesso le accuse, ma questo io parlo anche in assoluto, fuori da in un tritacarne in cui ti trovi a dover prendere, già magari puoi andare in confusione, ma addirittura che debba essere tu a dimostrare agli altri che non senti nulla, no? Gli altri a dimostrare le accuse, è una cosa anche... Certo, diventa qualcosa di draconiano. Forse abbiamo perso Vocalelli? Direttore, mi senti? Non mi sente più Alessandro Vocalelli... Peccato, perché volevo fare sentire anche il suo pensiero su un altro argomento ben diverso, cioè l'ingresso di capitale cinese nell'Inter. A proposito, abbiamo una voce di Moratti su questa operazione, 15% del club che finisce in mani cinesi e arriva Del Grano. Beh, prima di tutto un rafforzamento della società, questo dell'Inter. Poi è una bella operazione per conto mio, che dal punto di vista paese, cioè un investimento della Cina, è di una delle più grosse società cinesi, nel senso l'investimento per il futuro che è lo stadio, e di questi investitori cinesi, un momento che certamente non è più facile, e quindi fiducia in un paese, in una moneta, questo credo che sia importante, che sia valido e possa essere ripetuto. Così Moratti, direttore Vocalelli, un'ultima cosa prima di ringraziarti e salutarti, cosa ne pensi di questo ingresso cinese nell'Inter? Tutto il bene possibile, perché certo, io credo che se gli investitori stranieri guardano all'Italia finalmente con possibilità chiaramente da fare di ottimi affari, ma anche di portare risorse nuove, sicuramente non può che essere un fatto positivo. Abbiamo visto in altri paesi, in Inghilterra soprattutto, ma anche in Francia, quanto contino gli investitori, che un po' hanno il fatto che in Italia fino adesso ne siano mancati gli investitori stranieri, onestamente ha portato il campionato italiano ad essere un campionato, diciamo così, un po' di secondo ordine rispetto ad un altro calcio, per cui ben venga chi viene a investire in Italia. Grazie direttore. A voi, buona giornata. Buona giornata, Alessandro Vocalelli. Adesso io torno per chiudere con i miei amici ascoltatori, dopo aver dato notizie di calcio che sono queste. Domani Aquilani firma con la Fiorentina, che ieri ha preso Borja Valero dal Villarreal, gran centrocampista, e quindi la Fiorentina sta costruendo qualcosa di interessante, come peraltro sottolineava qualche minuto fa un ascoltatore via SMS. Marco da Milano. Ciao. Ciao. Tanto complimenti per la trasmissione, ci avevamo sentiti l'anno scorso per il basket, ma è andata male. Sentiamoci spesso, no, teniamoci in contatto. Perché ne parli in maniera un po' più americana e un po' meno ciarlatana italiana, Gazzetta dello Sport. Senti, intanto ti dico che nella semifinale del Fioretto contro la Francia l'Italia sta conducendo 14-8 ed è in pedana la nostra medaglia d'oro di Francisco. Non ci sono dubbi. Ma lì No. Io lo guardo, io sono appassionato di sport, no? Sì. Quindi guardo spesso. Non ci sono dubbi su cosa? Sulla medaglia d'oro. Orca miseria, posso fare gli scongiuri? Tanto non si vede. Fai gli scongiuri, poi sai, io parlo da te, non da tifoso, fai un podio con tre ragazze che hanno asfaltato un'intera palestra. Cioè, lo so. Avezzani ha fatto un numero da Messi in quella... Ha fatto un numero da Messi, in quella finale del bronzo ha fatto un numero da Messi, sul serio. Beh dai, 15-8, io non riesco ad avere tutta questa fiducia perché poi mi danno del portasfiga, del menagramo, eccetera. Io mi limito a fare il tifo. Ho meno convinzione di te, dimmi. Comunque volevo dire due cose sul nuoto. Intanto quel portatore che ha detto quella cavolata su Phelps, ragazzi, cioè il kid, come lo chiamano nell'ambiente, uno che l'hai visto come ha nuotato, ha aperto per 5 metri, quel delfino. Usciva come un palazzo a tre piani dall'acqua per tre vacche. Guarda, io ho un enorme rispetto nei confronti di così grandi campioni e quindi sentire delle sciocchezze non ti dico mi intristisce, mi dà fastidio, perché Phelps è un campione straordinario della storia dello sport, dunque sentire sciocchezze mi sembra fuori luogo. Dico una cosa che lascio spazio: l'anno scorso ero in America, no? Mm? A UCLA, e ho visto la piscina dell'università di UCLA. Io non credo che in Italia nessuna piscina federale possa competere con quel palazzo, e quella era un'università. Sì, se ci mettiamo a fare la gara con le strutture americane, ma non solo per le piscine, insomma, ci arrossiamo di vergogna, no? Quindi in America chi vuole fare sport ha le piene condizioni per farlo in contesti perfetti. Qui da noi è un problema anche trovare uno spazio in cui andare a correre molto spesso, uno spazio che sia pulito, dove non ci siano schifezze per terra, quindi è un altro mondo, purtroppo è un altro mondo, c'è un'altra cultura dello sport, ci sono altri investimenti per lo sport, dunque mi sembra un paragone che non mi va neanche di fare, perché sarebbe troppo ingeneroso e troppo, quello sì, triste per noi. Grazie Marco, alla prossima, continua a cercarci, a trovarci sull'800 24 0024. Alberto, provincia di Udine. Sì, buongiorno. Buongiorno, grazie per lo spazio. Dunque, prima giustamente hai detto che noi non ci siamo nel basket, nel maschile e femminile, e purtroppo questo sta diventando un'abitudine, ahimè. E a proposito di questo, ogni anno vedo sparizioni, la Snyder 2 anni fa è sparita nelle serie minori, Treviso quest'anno, Pesaro stenta parecchio. Con l'arrivo di Meneghin speravo di qualche cambiamento, ma non certo per colpa sua, non ci sono stati. Quando finirà sta cosa, secondo te? Quando il basket smetterà di essere gestito in questa maniera. Quindi io non riesco a vedere una fine fino a quando ci sono determinati così personaggi alla guida del basket. Sarebbe necessario un uomo forte, ma forte davvero. Non so se possa essere Petrucci, ma magari sì, in grado di non scendere a patti con nessuno, di tagliare i rami secchi, di costruire un giocattolo credibile, cosa che adesso il basket, e lo dico con il cuore che sanguina, non è. Federico Siena. Buonasera Ottogenta. Buonasera a lei. Allora, intanto complimenti non alla trasmissione ma a lei, perché ha sostituito nel migliore dei modi Gigi Garanzini. Anzi, molto meno professorino. Quindi, va bene, va bene, ok. Allora, dati per due domande. Dica. La prima è sul calcio. Sì. Volevo sapere come mai, cioè, dove è finita la denuncia, e a suo tempo fu fatta, di risarcimento danni della Juventus di 440 milioni alla Federazione Italiana di Gioco Calcio. Dopo vinto lo scudetto non si è più sentito parlare di questa denuncia, molto probabilmente ora ritornerà fuori perché non è stato accettato il patteggiamento di Conte. E questa è la prima domanda, mi piacerebbe sapere cosa ne pensa lei. No, si è risposto da solo, io non ne so nulla di che fine abbia fatto quella richiesta di risarcimento danni. E lei si è autorisposto dicendo che magari questa storia ritornerà fuori, perché credo che comunque questa vicenda del processo a Conte riporterà a galla un sacco di veleno, ne ho la certezza. Dica. La seconda domanda è riferita alla Pellegrini. Ho sentito la Pellegrini ieri sera, dopo la finale della staffetta, sì. euforica, ridere, scherzare, un gruppo così splendido, abbiamo, cioè sembrava avessero vinto loro. Allora io mi chiedo, siccome questa signorina tempo fa ha criticato Balotelli aspramente per le dichiarazioni e il comportamento di Balotelli, come si dice a Siena, a me sembra che la Pellegrini ci prenda un po' per il culo, ecco, tutto qua. Volevo sapere quello che ne pensava lei. Ma più o meno la penso alla stessa maniera. No, ma la Pellegrini è... so che molti si indispettiranno, ma ci sentiamo domani poi per le repliche. La Pellegrini è una Balotelli del nuoto. Non mi aveva sorpreso quello scazzo con Balotelli a distanza. È una che ovviamente ha altra eleganza, altri comportamenti, eccetera, eccetera, però ha questa stessa... prerogativa, cioè questo stesso desiderio dei riflettori di far vedere che a lei in fondo non gliene importa nulla di nessuno. Italia 19, Francia 9, semifinale del fioretto a squadre. Più tardi vi raccontiamo come finisce anche questa storia che profuma di medaglia. Grazie a Franco Piantanini in redazione e a Matteo Comes in regia. Ci sentiamo domani alle 2.